La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Tutte le novità cinematografiche del fine settimana e molto di più in questa puntata della Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi e ben ritrovati all'appuntamento con il settimanale di cinema di Radio 24. Come dicevamo, un manipolo di buoni film è arrivato nelle nostre sale cinematografiche, un paio di questi in corsa per la sempre più vicina notte degli Oscar. Si tratta di Il Dubbio con Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep e di Frost Nixon di Ron Howard, un film che ripercorre la migliore tradizione del cinema d'impegno civile americano, ricostruendo la famosa intervista che l'ex presidente degli Stati Uniti Richard Nixon rilasciò al giornalista David Frost. Ne parleremo con dovizia di particolari, parleremo anche di un film italiano molto atteso e con potenzialità di classifica importanti come Ex, con un cast davvero corale, e ancora di un film d'autore molto apprezzato, Ti amerò sempre. Avremo ospite il regista Philippe Claudel. Ma non mancheremo di occuparci fra poco, anzi prima di tutto, del Festival di Berlino, il primo grande festival internazionale della stagione che si è aperto proprio nei giorni scorsi e che durerà fino a tutta la prossima settimana. Allora, andiamo ai film del weekend e cerchiamo di assaporarne il gusto nel nostro audio sommario. Ho un'idea per un'intervista. Richard Nixon. Sei il presentatore di un talk show, ieri ti ho visto mentre intervistavi i Bee Gees. Perché mai dovrei parlare con David Frost? Per $500,000. Ah, sì? In prigione mettevo sempre un libro accanto a me sul cuscino. Una specie di muro, una difesa. Dall'altra parte c'era il mondo. Un mondo senza di me. Vogliono che noi sappiamo che sono qui. Chi? Il quarto è il cavallo scheletrico. E colui che lo cavalcava si chiamava Morte. I quattro cavalieri dell'Apocalisse. Mio figlio è venuto nella sua scuola perché in quella pubblica l'avrebbero ammazzato. A suo padre lui non piace. E nella sua scuola lui non piace ai suoi compagni. Solo un uomo è gentile con lui, quel prete. Non mi interessa il perché. Ma se quelle sono figlie a te, tu le hai cresciute, tu le hai educate, mo te tiene. No, ti tieni tu. Ma te tiene tu. E basta. E che bella famiglia. Stavolta bella famiglia. Se io l'avessi uccisa la prima volta che ci ho pensato, adesso già sarei fuori di galera. Le suggestioni sonore, il menu audio dei film nelle sale cinematografiche italiane in questo weekend. Noi prima però, come abbiamo detto, vogliamo presentarvi, introdurvi il Festival di Berlino, il primo grande appuntamento internazionale della stagione festivaliera che si è aperto, come dicevamo, da pochi giorni. Un festival che sta crescendo anche come capacità di impatto mediatico e popolare di anno in anno. Quest'anno però un po' di delusione per l'Italia, perché non ci sono film italiani in concorso. Questo ha dato adito anche a un po' di polemiche. Addirittura un grande produttore italiano come Riccardo Tozzi ha detto fuori dai denti, insomma, che i critici tedeschi ci odiano. Addirittura corrono voci, aneddoti del tipo che quando si tratta di scegliere quale critico mandare alla visione di un film italiano si effettua un'estrazione, perché sarebbe piuttosto noioso andare a vedere i nostri film. Noi non siamo convinti che le cose stiano così, potremmo anche fare un po' di pan per focaccia dicendo che non è che tutti i film tedeschi siano veramente il massimo della vita, ma non è a questo livello che vogliamo arrivare. Vogliamo dire senz'altro che forse qualcosa di buono il cinema italiano l'aveva fatto nell'ultimo anno, soprattutto da Cannes in poi, e forse un po' di attenzione su qualche film si poteva avere. Del resto ci sono molti attori italiani in film stranieri, forse anche questo significa che il nostro movimento cinematografico non è che sia proprio da buttare via totalmente. Barbareschi in un film di grande produzione internazionale come The International, Scamarcio in un film greco, La Bellucci, una shooting star, cioè una delle stelle emergenti a cui Berlino dedica degli ampi spazi, Alba Rohrwacher. Insomma, tutto sommato un po' d'Italia c'è, forse poteva essercene un po' di più. Chiedo, se è d'accordo con questa mia visione delle cose, Boris Stollazzo, collega che qui alla Rosa Purpurea più volte ci aiuta un po', soprattutto sui grandi eventi, e che è già a Berlino. Allora, Boris. Assolutamente sì, aggiungo alla tua perfetta disamina sui nostri attori, forse è quella la parte più in salute del nostro cinema, cioè il panorama attoriale che ha avuto un ricambio generazionale straordinario negli ultimi 4-5 anni ed è iniziato proprio qui da Berlino con romanzo criminale, aggiungo due film che stanno nella neonata sezione cinema e cibo, da leccarsi i baffi, è proprio il caso di dirlo, ovvero Terra Madre di Ermanno Olmi e Il pranzo di Ferragosto di De Gregorio, che continua insomma veramente la sua cavalcata trionfale e probabilmente imprevedibile. E quindi anche cinema italiano, tra l'altro di Terra Madre parleremo nella prossima puntata della Rosa Purpurea, quando chiaramente saremo in onda proprio nel weekend che assegnerà i premi del Festival di Berlino, perché avremo la possibilità di sentire uno dei due ideatori di questa avventura cinematografica, il grande nome realizzatore Ermanno Olmi, però anche Carlin Petrini, uno che io proporrei come premio Nobel per la pace, veramente, perché trovo che sia uno degli uomini che ha detto le parole più sagge rispetto a quello che oggi è l'umanità negli ultimi 10 anni. Però detto questo, Carlin Petrini sarà nostro ospite alla prossima puntata per raccontarci l'idea di questo film, su questo fantastico movimento che è appunto Terra Madre. Boris, abbandonata un attimo però l'Italia, parliamo di chi c'è. Sì, c'è da dire che come al solito Berlino si gioca tutto nei primi giorni, quindi abbiamo già visto forse le star hollywoodiane che più solleticavano l'attenzione di tutti noi, ovvero Clive Owen e Naomi Watts, coppia insomma abbastanza irresistibile. Abbiamo visto The Reader con la nominata al premio Oscar Kate Winslet. C'è però, come tu hai ricordato, nel molto politico Eden Costa-Gavras, un Riccardo Scamarcio forse alla prima vera grandissima prova sul piano internazionale. C'è però anche molta guerra nel vero senso della parola, perché tra i film forse più interessanti c'è The Messenger, dello sceneggiatore di I'm Not There, il film dedicato a Bob Dylan, dove abbiamo visto una delle ultime bellissime interpretazioni del compianto Heath Ledger, ovvero Oren Moverman, che fa fare a un'altra star, a un'altra grandissima star, Woody Harrelson, Il messaggero di morte, cioè quello che nel esercito americano è costretto a comunicare alle famiglie la morte dei soldati. E così London River con Rachid Bouchareb, che torna con un film dedicato a quel 7 luglio del 2005, a quelle bombe a Londra e in particolare a due che sono stati colpiti nell'affetto più caro, cioè i figli, hanno perso i figli. Insomma, è un menù importante per il Festival di Berlino. Noi torneremo a chiacchierarne con Boris Sollazzo la prossima settimana, appunto qui la Rosa Purpurea in chiave di resoconto. Grazie Boris e buon lavoro. Grazie a te. E sicuramente arriveranno anche dal Festival di Berlino alcuni film capaci di scalare le vette delle classifiche del botteghino, su cui stato di salute ci informa come sempre la Screen Parade la nostra Daniela Faggion. Sventola in vetta ancora il tricolore, tallonato però da Valkyrie e potenziali Oscar. Resiste intanto al quinto posto Yes Man. Jim Carrey porta a casa altri 576.000 euro e sfiora i 7.400.000. Giù dal podio al quarto posto la fantascienza 3D di Viaggio al centro della Terra, che supera il 1.100.000 e arriva a 5.900.000 complessivi. Sbrigatevi ragazzi, voglio tornare a casa prima del tramonto. Ehi, potresti andare un po' più piano, per favore? Debutta al terzo posto Revolutionary Road, film in cui Sam Mendes dirige la moglie Kate Winslet accanto a Leonardo DiCaprio, di nuovo bollenti come ai tempi del Titanic. Andremo in Europa. A Parigi. Oh! A viverci. Cosa? Quando? Più di 1.600.000 per Tom Cruise, giunto anche sui nostri schermi con il suo complotto contro Hitler di Operazione Valchiria, ma sono gli Italians di Giovanni Veronesi a conservare lo scettro, più di 2.800.000 al secondo weekend in sala e un totale che ha già sfiorato i 9 milioni. Perché trasportiamo solo Ferrari? Perché le Ferrari sono un mito. La Rosa Purpurea. Dovete essere vigili. C'è un problema alla scuola St. Nicholas che mi turba. È una nuova era, sorella. La Chiesa deve cambiare. È uno scontro fra due mentalità, una più aperta e progressista e l'altra conservatrice al limite del reazionario, quella che regola i rapporti fra i protagonisti de Il Dubbio, il film che ci riporta qui insieme alla Rosa Purpurea. È un film importante per molti motivi: la presenza di due star di primo richiamo come Philip Seymour Hoffman e Meryl Streep, i 5 Golden Globe vinti e le 5 nomination agli Oscar, fra cui 4 agli attori e una alla sceneggiatura, adattamento di una pièce teatrale dello stesso regista John Patrick Shanley, premiata con un Pulitzer. Insomma, un film robusto che si basa sulla prova degli attori e su una rigorosa messa in scena. 1964, il Bronx è ancora il Bronx. La scuola privata e cattolica di St. Nicholas è gestita con pugno di ferro dalla suora Aloysius, Meryl Streep. Ma il vento del cambiamento di quegli anni 60 soffia anche lì, fra le case di mattoni rossi del ghetto e i rigidi steccati della fede. E padre Flynn, Philip Seymour Hoffman, il parroco della chiesa di St. Nicholas, ne è un convinto interprete. Esemplificativo questo passaggio del film. Lei propone qualcosa di nuovo? Beh, gli inni di Natale piacciono a tutti, ma porterebbe allegria inserire un canto secolare. E perché far cantare proprio un canto secolare? Per gioco. O Frosty il pupazzo di neve. Molto bella. Frosty il pupazzo di neve sposa in pieno il culto pagano della magia. Il pupazzo si anima grazie a un magico cappello. Se la musica fosse più cupa, la gente potrebbe rendersi conto che le immagini sono inquietanti e la canzone eretica. Le posso chiedere che cosa sta scrivendo con quella penna a biro? Un'idea per un sermone. E qual è l'idea? L'intolleranza. La scuola ha da poco accettato il suo primo studente di colore, Donald Miller, ma un giorno, quando la giovane Suor James confida a Suor Aloysius i suoi sospetti sulle attenzioni particolari di padre Flynn per il ragazzino, la superiore inizia una crociata per cacciare il prete dalla scuola, senza uno straccio di prova e al di là di ogni ragionevole dubbio. Che diceva di Donald Miller? Che bisogna essere cauti, nella recita non si deve nascondere Donald Miller, ma neanche esibirlo. Per il colore della sua pelle? Andiamo, padre. Dovrebbe essere trattato come tutti gli altri. Beh, lei stesso ha fatto oggetto il ragazzo di particolari attenzioni. Lo ha incontrato da solo, in canonica, una settimana fa. Di che stiamo parlando? Il ragazzo era strano quando ha fatto il ritorno in classe. E dato che veniva dalla canonica, lo chiedete a me? Esatto. I was at a dance when it caught my eye. Il bello di questo film è il clima di incertezza. Il cinema ci ha abituato a fare il tifo per la persona giusta, almeno quando sul tavolo c'è una questione morale, come il sospetto di pedofilia di un sacerdote. Ma questo film, sin dal suo titolo, ci ricorda che le cose spesso non stanno come sembra e mette lo spettatore nelle condizioni di empatizzare col prete sospetto di moralità e di antipatizzare con la superiora, incapace di creare un contatto umano con chi la circonda. Non sappiamo invece se mettere la sceneggiatura davvero dalla parte dei più o da quella dei meno. Certo è stata premiata col Golden Globe, nominata all'Oscar, come dicevamo, e una ragione ci sarà. Ma la nostra impressione è che il film, soprattutto a causa della verbosità dei dialoghi, non riesca a scrollarsi di dosso quella teatralità dalla quale il cinema dovrebbe invece sempre prendere un po' le distanze. Si respira netto, invece, questo va a favore della sceneggiatura, il clima pesante di quei giorni in cui qualche crepa cominciava a comparire sulla facciata bacchettona dell'America. Assoluto sostenitore dello script, il protagonista Philip Seymour Hoffman. Buono script, credo proprio che per un attore sia una priorità. E questo personaggio è dettagliato e onesto. Per me la scrittura è assolutamente una priorità. Philip Seymour Hoffman al fianco di Meryl Streep, niente da eccepire sugli attori. Meryl Streep ogni tanto sembra la Miranda del Diavolo Veste Prada in abito talare, il diavolo è l'acqua santa, potremmo dire. E padre Flynn, personaggio che lo scorso anno era stato interpretato nella versione teatrale italiana da Stefano Accorsi, dà fierezza e compostezza al corpo disarmonico di Philip Seymour Hoffman, che descrive così il suo personaggio. He's somebody who's trying to spark new life into something. Il mio personaggio è un uomo aperto alla vita, aggiornato, è un intellettuale, ama leggere, scrivere, si guarda intorno, ma purtroppo per lui vive e lavora in un contesto, quello della Chiesa, che non lo aiuta e che soprattutto a quel tempo non guarda i cambiamenti della società. Io comunque cerco di andare per la mia strada. Abbiamo parlato di Il Dubbio, ora apriamo la prima finestra sul DVD Game, un appuntamento fisso con la nostra trasmissione, tre tracce di un film misterioso che dovrete indovinare per provare a vincere il DVD proprio di questo film. Allora ascoltiamo la prima traccia. Le entrate sono sempre state il tuo forte. Come mai siete qui? Che cosa ci fate qui? Io scrivo un articolo sul viaggio. Io sono qui per una vacanza avventurosa. Io ho fatto un salto per dire Ciao. La Rosa Purpura, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, più tardi avrete la possibilità di giocare ancora con noi. E ora noi andiamo avanti, c'è un altro film d'autore di cui vogliamo parlarvi, si intitola Ti amerò sempre, è un film che ha cominciato la sua corsa, pensate, un anno fa proprio al Festival di Berlino, lo ha diretto Philippe Claudel, che fra poco ascolteremo a margine della recensione firmata dalla nostra Daniela Fagion. In prigione mettevo sempre un libro accanto a me sul cuscino. Una specie di muro, una difesa. Dall'altra parte c'era il mondo, un mondo senza di me. Juliette ha trascorso 15 anni in carcere, pagato con la giustizia e con la società il fio della colpa. Una condanna per omicidio, la donna deve riallacciare i legami con la famiglia che all'epoca l'aveva ripudiata proprio per la responsabilità che Juliette aveva ammesso. Il padre però è morto, la madre è ormai persa nell'Alzheimer e alla donna rimane solo la sorella minore, Léa, che nel frattempo si è sposata e ha avuto due bambine. Mamma! Vieni, mamma, dai! La zia mi ha detto che suonavi benissimo. Dai, vieni. Allora mi metto a destra, come una volta. Juliette viene trattata con molta gentilezza, ma è tangibile la diffidenza nei suoi confronti, specie da parte del cognato. Smarrita e segnata dall'isolamento anche mentale a cui è stata costretta, Juliette si muove d'altronde con molta circospezione, consapevole dei pregiudizi ma anche del segreto che li genera. Solo gli occhi puri e amorevoli di Léa sanno guardare oltre le apparenze e trovare la chiave giusta per scoprire la verità e proteggere la sorella. Juliette non dice niente. Juliette ci osserva e ci giudica. Ma chi è Juliette? Juliette degli spiriti, del limbo. Chiamerò sempre il lento ritorno alla normalità di una donna che ha vissuto il dramma del carcere, quello ancora più sordo di un lutto, vera chiave della storia. Il regista Philippe Claudel, che è anche apprezzato scrittore francese, costruisce la storia in modo che i dettagli arrivino calibrati, consentendo allo spettatore di leggerli fra dialoghi rarefatti e azioni essenziali. Lo stesso Claudel riconosce che il suo doppio ruolo di scrittore e cineasta lo ha aiutato in questo. J'ai l'impression d'avoir une double nature inversée en fait. Je sais que sur le plateau de cinéma. Ho l'impressione di avere una doppia natura intercambiabile. Sul set ci sono state tante persone un po' preoccupate dai miei metodi non troppo convenzionali, ma mi interessava dirigere secondo il mio sentire. Lo stesso quando scrivo, compongo immaginando la scena di un film, ne immagino la sceneggiatura e la regia. Sono molto felice di potermi esprimere con questi due mezzi artistici diversi e di poter cambiare i ruoli. La mise en scène. E c'è assez agréable de pouvoir faire les deux comme ça, entremêlés. Il film conta anche sulla straordinaria interpretazione di Kristin Scott Thomas e della sua comprimaria Elsa Silberstein, che Claudel sa dirigere in maniera trasparente e forte al tempo stesso. Sentiamo allora dal regista come interpreta il lavoro con gli attori. Je pense que le travail avec que ce soit les actrices, les acteurs, je crois qu'il faut. Il mio lavoro con le attrici al centro di questa storia e con gli attori in genere è basato soprattutto su rispetto e fiducia. Penso che questo debba accadere in qualunque tipo di mestiere. La scelta di lavorare con altre persone deve nascere dal rispetto, dalla stima e dalla voglia di stare con loro, per dare il meglio tutti insieme e costruire qualcosa di bello e importante. Sicuramente ci vuole anche un grande spirito di adattamento, perché siamo tutti diversi, ognuno ha la sua personalità, e proprio l'incontro di queste differenze produce un risultato. Il faut composer avec nos personnalités. Ti amerò sempre di Philippe Claudel, il cinema d'autore in questo weekend in sala, e ora invece cambiamo completamente registro perché abbiamo un'altra proposta che sicuramente interessa i bambini, ma non solo, diciamo un family movie, si intitola Space Chimps e racconta l'avventura spaziale di un gruppo di simpatiche scimmie. L'ha visto per noi Annalisa Misceo. Ed eccolo qua, un simbolo del nostro paese e della sua passata e futura grandezza. Ham Herzo! Ham è il nipote di una scimmia eroica. Suo nonno è stato il primo scimpanzé che è andato nello spazio. Anche lui vola tra le stelle, ma non è proprio un eroe. Lavora in un circo e ogni sera viene lanciato in cielo da un cannone per poi atterrare maldestramente dove capita. Fino a quando un giorno arrivano a prenderlo direttamente dalla NASA. Tu andrai nello spazio! Wow! È elettrizzato l'idea di partire! Alla NASA trova altri scimpanzé addestrati da astronauti e con due di loro, il capitano Titan e il tenente Luna, viene lanciato nello spazio a bordo di una navicella alla ricerca di una sonda perduta in un buco nero. Si sono addestrati per questo momento da tutta una vita. Ham, Luna e Titan finiscono su un pianeta abitato da esseri viventi sottomessi a un tiranno, Lord Zartog, reso ancora più potente e cattivo da quella stessa sonda che i tre scimpanzé sono stati mandati a cercare. Così, sentendosi responsabili per le sorti degli abitanti, le scimmiette sfruttano addestramento intuito e non solo liberano il pianeta dall'oppressore, ma riescono anche a costruire una nuova astronave e a tornare sulla Terra. Ma sei fuori? Non sono un astronauta! Indossi per caso vestiti d'alluminio? Sì! Sei dentro a un razzo? Sì! Nello spazio cosmico? Sì. Sei forse David Bowie? No. Allora devi essere un astronauta! Porta a casa questa astronave, spaccone! Con Space Chimps, la Vanguard Animation, la stessa che ha disegnato il piccione Valiant, rende omaggio al vero Ham, primo e unico scimpanzé spaziale che nel 1961 è stato lanciato da Cape Canaveral per una missione di ben 16 minuti. E così, con scimmie troppo umane e umani che sembrano animali in uno zoo, il risultato è una storia semplice e senza tanti piani di lettura, adatta ai bambini, dei quali ultimamente il mondo dell'animazione sembra essersi spesso dimenticato. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con l'analisi dei film nelle sale cinematografiche in questo weekend e parliamo ora di cinema italiano. Mentre, come avete sentito, continua il successo al botteghino di Italians, il nostro cinema continua a ripercorrere il solco che più gli riesce per quanto riguarda almeno gli incassi e la popolarità, ovvero la commedia. Questa volta una commedia corale con un cast veramente vastissimo e di nomi anche importanti. Il film si intitola Ex e, come potete immaginare, scava di dietro gli amori che finiscono e soprattutto dietro quello che lasciano. L'ha visto per noi Barbara Righini. Ex amanti, ex mogli, ex fiamme, ex fidanzate. La nuova fatica di Fausto Brizzi, il regista diventato famoso 3 anni fa per Notte prima degli esami, film che fu un caso, arruola un cast all star per declinare il tema in tutte le sue sfaccettature. Sono 25 anni che mi preparo a scrivere un film sugli ex, insomma, dalla prima volta che una donna mi ha mollato, anzi, le dedico il film. No, ci circondano gli ex, ormai basterebbero gli ex dei miei attori per riempire le sale. Ex è una commedia romantica che intreccia le storie di tanti amori passati e presenti. C'è allora il triangolo Gerini-Tognazzi-Insinna. Caso vuole che la coppia composta da Corrado e Elisa scelga proprio Don Lorenzo per celebrare le future nozze, ma Corrado non sa che Don Lorenzo, prima di diventare Don, era stato il primo grande amore di Elisa. Ci sono Carla Signoris e Silvio Orlando, matrimonio duraturo che improvvisamente va in crisi e sfiora il divorzio, e poi Nancy Brilli e Vincenzo Salemme nei ruoli di Caterina e Filippo che devono gestire la questione figli. Allora, sugli alimenti, lei qui, dottor Martani? Sì. Dichiara che accetta di pagare la cifra di 3.500 euro mensili e rinuncia all'affidamento dei due bambini. Esatto, basta che la facciamo finita. Invece lei, signora Zecchi, per quanto riguarda la cifra, è d'accordo e rinuncia all'affidamento dei due figli. Come è possibile, scusa? Rinunciate tutte e due? Ma vi siete parlati? Per le coppie giovanissime sono gli ormoni e la distanza a giocare brutti scherzi, mentre a remare contro fra Paolo e Monique, interpretati da Fabio De Luigi e Cécile Cassel, è la gelosia. Hai presente Monique? Monique è la mia fidanzata? No, è la mia fidanzata, almeno lo era fino a quando non sei arrivato tu. La vita è particolarmente dura per Claudio Bisio, che in questo film dimostra nuovamente maturità dopo la buona prova di Si può fare. Bisio è un papà, ex marito, che si ritrova a dover gestire due figlie giovanissime dopo averle lasciate con la madre per molti anni. Ma cerca di essere aperto, lasciale libere. Più di così. Senti, non lo so, io ho i miei problemi. E poi lo psicologo sei tu. Ma che c'entra? Un conto è la teoria, un conto è... Oh, a mia moglie veniva naturale, a me no. Papà? Scusa un attimo. Sì? È un preservativo? Cosa? Sandro, il personaggio interpretato da Bisio, si accorgerà dell'importanza della sua ex moglie troppo tardi, cosa che, ci ha confessato l'attore, gli è successo più volte anche nella vita reale. Quasi sempre, devo dire, quasi sempre accade, almeno a me è successo, di apprezzare le cose quando non ci sono più, quando mancano. Qui nel film succede in modo clamoroso. Per il mio personaggio Sergio, il percorso di ex è l'incontrario, cioè si trova improvvisamente a dover badare alle figlie. E capirà, lui convinto da sempre che la moglie parlasse male di lui alle figlie, che lo denigrasse, invece scopre che non solo che non era così, che parlava molto bene di lui, che era ancora innamorata, che gli faceva i regali di Natale sperando ogni Natale che lui tornasse, e quindi questa cosa lo colpisce. Nonostante le difficoltà, l'amore, quando è vero, trionfa. D'altra parte, in un film che ha l'ambizione di arrivare a tutti e di raggranellare un buon incasso, non ci si poteva aspettare cinismo o un finale che non accontentasse i cuori teneri. Ma nonostante qualche scivolata, X riesce nel suo intento, cioè far sorridere e divertire da un lato e strappare qualche lacrima dall'altro. Brizzi sa ben manovrare i fili delle varie storie grazie a una buona sceneggiatura e appoggiandosi su un cast che sa il fatto suo. Un film di poche pretese che riesce ad emozionare. Grazie a Barbara Righini che ci ha raccontato X, un film che troveremo sicuramente alle vette, chissà, forse nella vetta assoluta della classifica degli incassi la prossima settimana. Adesso giochiamo insieme per la seconda volta con il nostro DVD game. Ascoltiamo un'altra traccia del film misterioso. DS e HB. Gliel'ho comprata io, mi è costata 10 sterline più la mia maglietta con Johnny Rotten. Tua madre conosceva un vero ribelle. La Rosa Purpurea, @radio24.it per provare a vincere questo DVD. E adesso dal disimpegno di X all'impegno civile americano di Frost Nixon, l'ultima novità al cinema in Italia in questo fine settimana, dirige Ron Howard. Ho un'idea per un'intervista. Richard Nixon. Sei il presentatore di un talk show, ieri ti ho visto mentre intervistavi i Bee Gees. L'estate del 77 era calda, da 3 anni ormai, da quando si era dimesso da presidente degli Stati Uniti, travolto dallo scandalo Watergate, Richard Nixon viveva come un pensionato di lusso, al sole della California, che abbandonava solo per intervenire a convegni e conferenze e rastrellare ancora qualche dollaro. Nel 1972, ancora saldamente in sella alla Casa Bianca, Nixon era un uomo inattaccabile. Stava portando a termine la sanguinosa guerra del Vietnam, aveva ottenuto la svolta diplomatica con l'Unione Sovietica, era il primo capo di Stato occidentale ad essere andato in visita ufficiale in Cina. I suoi indici di popolarità erano pari a quelli di Kennedy. Poi decise di provare a insabbiare un furto con scasso di basso livello e fu Watergate. Buonasera, mi dimetterò dalla presidenza domani a mezzogiorno. Questo è un giorno storico. L'unica volta che un presidente si sia dimesso dalla Guardia Cambiamento del caso Watergate. David Frost era un presentatore di talk show britannico, brillante conduttore, certo, ma un peso piuma con la politica. Non aveva nemmeno mai votato, ma aveva un vantaggio su tutti. David Frost aveva capito la televisione. Ed eccoci di nuovo a quella calda estate del 77. David Frost, in cerca di un'affermazione in America, si era messo in testa un'idea meravigliosa: intervistare Richard Nixon, sottrarlo alla pensione dorata della California e provare a inchiodarlo alle sue responsabilità sul Watergate. Ottenere insomma quel mea culpa che le dimissioni di Nixon avevano negato al popolo americano. L'ambasciata arrivò sul tavolo dell'ex presidente. Se va tutto bene, se la vedono sufficienti persone e la loro opinione cambia, lei potrebbe trasferirsi di nuovo nell'East Coast contro ogni previsione. Questo sarebbe così bello, poter tornare laggiù dove c'è l'azione. Sai, la fame nel mio stomaco non tende a scemare. Nixon e il suo staff erano convinti, avrebbe fatto un sol boccone dell'avventato intervistatore inglese. Frost si sarebbe accontentato dell'evento e per sudditanza psicologica non avrebbe scavato troppo a fondo. Ma le intenzioni di Frost, almeno le intenzioni, non erano quelle. Si era circondato di uno staff di agguerriti inquisitori, battaglieri giornalisti progressisti già impegnati sul Watergate, che avrebbero rappresentato quell'anima politica che Frost non aveva. Lo spettacolo poteva cominciare. Pronti per girare? Ieri ha trascorso una bella serata? Sì. 4, 3, 2. Ha avuto modo di fornicare? A te, David. 4 sessioni di registrazione in una villa presa in affitto. Le prime 3 sono un fiasco. Frost è troppo morbido ed è in soggezione di fronte all'ingombrante carisma del presidente. Io dico che oggi c'è stato un miglioramento. Sei pazzo? Ora ti spiego quanto sono andate male le cose. A fine registrazione c'erano 2 membri della troupe che dicevano che non avevano mai sostenuto né mai votato, ma che se lui dovesse ricandidarsi oggi lo appoggerebbero. Gli stai regalando un'immagine presidenziale, santo cielo. Sull'orlo del baratro, nel corso della 4ª e ultima seduta, Frost trova il coraggio e parte con la domanda giusta. Signor presidente, guardando all'ultimo anno del suo mandato, lei ritiene di aver ostacolato la giustizia? e Nixon, punto sul vivo, dà una risposta che passa alla storia. A volte bisogna fare molte cose che forse non si possono definire legali, ma vengono fatte per conseguire il bene più alto della nazione. Sta veramente affermando che in certe situazioni il presidente può fare qualcosa di illegale? Sto dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale. Ron Howard, uno dei maggiori registi classici contemporanei, ne ha fatta di strada il Ricky Cunningham di Happy Days, firma un altro film strepitoso, trasformando un'intervista televisiva in un duello all'OK Corral. E la forza sta nella sceneggiatura, scritta da Peter Morgan, già autore del bellissimo The Queen, che descrive la preparazione dei personaggi e poi il duello come se si trattasse di un film su Rocky, uno sfidante ambizioso che lancia il guanto al campione dei pesi massimi. La tensione è palpabile, dall'inizio alla fine, e cresce man mano che Frost comincia a rischiare il fiasco e deve trovare dentro di sé le energie per ribaltare la partita. Ma Frost Nixon, che ha raccolto 5 candidature all'Oscar, fra cui quella per il miglior film, è anche una riflessione sull'uso del mezzo televisivo, surrogato di un'aula di tribunale per un processo che un politico corrotto non aveva mai avuto. In attesa che l'America di Obama diventi realtà, il cinema americano ci ricorda come la stampa di quel paese sia stata, e pensiamo in buona parte sia ancora, indipendente dai palazzi del potere politico e quindi garanzia democratica. Un gran lavoro l'hanno fatto anche al casting, privilegiando alla strada delle star quella degli attori solidi. Michael Sheen è uno stupefacente David Frost, dopo essere stato il Tony Blair del succitato The Queen. E poi Kevin Bacon, Sam Rockwell, Rebecca Hall, in ruoli di contorno ma importanti. Ma l'impatto più forte sul film ce l'ha Frank Langella, un Nixon più efficace anche dell'Anthony Hopkins del film di Oliver Stone del 95. Sentiamolo. Richard Nixon was so pervasive in my thoughts. Richard Nixon era così pervasivo nella mia immaginazione, nei miei pensieri, nella mia mente, che mi sono domandato se una volta fissato nella mia recitazione sarei riuscito a tenerlo così. Io amo divertirmi sul set per rilassarmi, ma ho pensato che se mi aprivo troppo con i colleghi perdevo di concentrazione. Così tutti mi dicevano buongiorno, signora presidente, tanto mi ero calato nella parte. Ha creato una separazione per Nixon, così feelings isolation. Altrimenti se giochi sempre è più difficoltoso, ma questo era il presidente degli Stati Uniti. In this instance, this was the president of the United States, both for them and for me. Il regista Ron Howard invece si sofferma sui parallelismi fra la vicenda Nixon e la recente amministrazione Bush. This story reminds me that something that Questa storia mi ricorda che qualcosa che non sarebbe mai dovuto capitare nel nostro paese è successo di nuovo, in effetti. Con l'amministrazione Bush, l'Afghanistan e l'Iraq, è venuta meno di nuovo la fiducia dei cittadini nei confronti del governo, una sorta di terremoto. I parallelismi ci sono. Girare il film su Nixon mi ha fatto tornare indietro nel 77, quando io ero un giovane americano, vivevo lo scandalo Watergate in Vietnam e avevo bisogno di conoscere la verità, volevo sapere cosa succedeva. Ed è quello che ho voluto rappresentare con Frost Nixon, grazie alla sceneggiatura di Peter Morgan. E come si inserisce, che posto ha Nixon Frost nella filmografia di Ron Howard, ancora il regista? Every film version of a set of real events is in some way a kind of a fictionalization. Ogni film è un'occasione per raccontare una storia, una fiction. Puoi descrivere quello che vuoi, ma ci sono storie come lo sono state per esempio Cinderella Man o Apollo 13 che possono essere raccontate attraverso il racconto preciso di quanto è successo. E poi ci sono altri film come Beautiful Mind che raccontano sì la vita di un uomo, ma non attraverso i fatti, il caso o il destino, ma attraverso i pensieri più profondi di un individuo. Quello che ha fatto lo sceneggiatore Peter Morgan è stato un mix di questi due approcci. Abbiamo raccontato la storia di Nixon attraverso le interviste che gli fece il giornalista, ma allo stesso tempo siamo voluti entrare nella mente di Nixon per raccontare i pensieri più profondi di un uomo che ha influito sul nostro paese. Insomma, c'è molto altro oltre ai dialoghi straordinari, e questo ha reso molto interessante tutto il film. Kind of dazzling about the writing, and that's what was very exciting about directing the movie. La Rosa Purpurea. Why can't I remember what happened that night? You lost your mother in the fire. Maybe it's not such a bad thing to forget. Go home. You'll figure it out. Rieccoci insieme, pronti a volare in America, almeno idealmente, con il nostro Trailer USA, la rubrica che ci fa ascoltare l'audio originale dei trailer dei film americani, delle novità in sala in America che poi arriveranno inevitabilmente nei nostri cinema. Oggi parliamo di un film horror che si intitola The Uninvited, cioè Il Non Invitato. In Italia uscirà con il secondo titolo di Fantasmi del Passato il 29 maggio, ma come dicevamo in America è già uscito ed è già campionato campione di incassi, è esattamente al terzo posto della top 10, 10 milioni di dollari nel primo weekend, proprio dietro a Paul Blart Mall Cop, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e a Taken, il thriller con Liam Neeson. E allora siamo qui con Micaela Bellisario, che come sempre ci aiuta a far vivere questi trailer. Ciao Micaela. Ciao Franco. Allora Micaela, questo film ancora una volta è il remake, direi l'instant remake, di un film asiatico, questa volta coreano, che si intitolava The Two Sisters di Kim Ji-won, tra l'altro uscì in Italia nel 2004. Sì, chissà, forse gli amanti dell'horror lo ricorderanno, la trama del resto è la stessa, anzi è identica, è la storia di un'adolescente, Anna, che torna a casa dopo un periodo passato in un ospedale psichiatrico in seguito alla morte della madre, morta appunto in circostanze misteriose. Trova la sorella e soprattutto scopre che il padre nel frattempo si è risposato con un'altra donna, che però non è una donna qualunque, ma è l'infermiera della madre. La situazione che trova, insomma, non è delle migliori, il clima è teso e soprattutto all'improvviso comincia ad apparire un fantasma di una donna, in realtà una bambina che però potrebbe essere anche la madre. Sentiamo un passo del trailer in cui ad Anna viene rivelata appunto questa nuova famiglia. Alex, I miss you so much. I assume you saw Dad's with girlfriend. I'm so glad to have you back. I hope it works out so you can stay. And I'm sorry, I meant to tell you about Rachel. When did she move in? A month ago. She's helping him cope. Three times a night. Anna e la sorella, insomma, non sono molto convinte di questa matrigna che cerca di essere loro amica. Soprattutto, aiutate da questo fantasma, ogni giorno scoprono novità, mettono insieme tasselli della vita di questa donna che ha avuto un passato molto tragico. Cercano allora di convincere il padre che la nuova moglie non è la persona che finge di essere. Quella che doveva essere una nuova famiglia si trasforma poco a poco in una micidiale lotta tra figliastre e matrigna. No, Elena. I don't think this is going to work out. Insomma, una classica ghost story, tra l'altro con citazioni stilistiche del nuovo cinema horror spagnolo, la grande scuola spagnola ci respira un po' l'atmosfera di The Orphanage, oppure del film di Guillermo del Toro, La spina del diavolo. Insomma, per una volta, dopo tanti anni, è l'Europa che torna a insegnare qualcosa in termini stilistici cinematografici agli Stati Uniti. Era The Uninvited, Fantasmi del passato, grazie Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana e un saluto agli ascoltatori. E come sempre a concludere la nostra trasmissione, ad arricchire con le possibilità di visione a casa dei grandi film, c'è lo spazio dedicato ai DVD. Come sempre noi cominciamo concludendo la nostra proposta per quanto riguarda il film misterioso della settimana. Allora ascoltiamo la terza traccia. Non so dove siano, non so perché siano qui e me la sono voluta. È solo colpa mia perché sono stata una stupida sgualdrinella incosciente. Parli proprio come tua madre. Non è vero. Ma sì che è vero. Sei vittima vero. Del senso di colpa dei cattolici. Hai vissuto come una suora. Già, che fine ha fatto la nostra donna? La rosa purpurea @radio24.it. Se avete indovinato, era l'ultima possibilità per provare a vincere proprio il DVD di questo film. E io a questo punto introduco il nostro Claudio Pofi, il nostro super esperto di Home Entertainment. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora Claudio, andiamo intanto a risolvere il quiz della scorsa settimana facendo ascoltare una delle tracce che avevamo seminato. Ragazzi, sentite, fermatevi, arrendetevi, non voglio agitarmi, sono caldo. Ok. Volete schiantarvi? Sono bravo a schiantare! E si trattava del divertentissimo Hancock con Will Smith, un film che diciamo ripropone l'icona, l'immagine dell'eroe diciamo un po' sfigato, tanto per usare un termine ormai corrente, un eroe che non è capace di gestire la sua popolarità, anzi diventa estremamente impopolare. Del resto, su questa strada ci aveva già portato, con il solito anticipo, la Disney con Gli Incredibili, ricorderete, no? Dove c'era proprio un mondo nel quale i supereroi non piacevano più a nessuno. Allora, il DVD, Claudio, quali caratteristiche ha? Beh, per questo supereroe politically correct abbiamo una realizzazione di tutto rispetto. Sony ha fatto le cose per bene, come al solito ha messo in opera un'edizione singolo e doppio DVD e un'edizione due dischi Blu-ray che contiene un disco Blu-ray e il DVD con la copia digitale del film. La qualità è assolutamente ineccepibile, abbiamo ovviamente per il DVD una serie di tracce Dolby Digital multicanale tutte molto efficaci, soprattutto l'italiana e l'inglese, e svariati approfondimenti sulla realizzazione di un'opera il cui punto di forza in assoluto è proprio la computer graphic animation. Per quanto riguarda il Blu-ray, sono presenti delle tracce audio che hanno una maggiore risoluzione e la possibilità di visionare il film con il commento visivo del regista, degli attori e dei cineasti. Ecco, Claudio, c'è anche una versione di cui parleremo, perché è un progetto molto interessante della Sony nelle prossime puntate, che si chiama Ecocinema. C'è una versione cell in vendita che costa un po' meno di quella normale ed è fatta con materiali completamente riciclabili e naturali. Ci resta da segnalare ovviamente i vincitori di questo game, ovvero di Hancock, sono Enzo Manini di Villa di Serio, provincia di Bergamo, e Caterina Orlando di Palermo, quindi c'è l'Italia del Nord e l'Italia del Sud, per questo premio. Andiamo avanti perché ci sono le due recensioni abbastanza eccentriche di questa settimana, cominciando con un horror d'autore come Possession di Andrei Zulawski. Ascoltiamo la clip. Nessuno mi ha visto entrare, nessuno! Io ho chiamato perché bisogna fare tutto il possibile per salvarla. Perché? Perché non è normale. È una cosa disumana, una cosa... Una cosa divina? Può darsi che tu abbia visto Dio in persona e non te ne sei neanche reso conto. Perché tu credi in Dio, non è vero? Sì, certo. Non ho ragione? Senti, Mark, quella donna è pazza e tocca a noi fare qualcosa. No. Il DVD è di Raro Video, un horror metafisico che è diventato un oggetto di culto per gli appassionati di genere e non, strausannato dal maestro David Lynch. È la storia di questi due coniugi in crisi, lui torna da un viaggio, trova la moglie che è interpretata dalla spettacolare Isabella Gianni, assolutamente cambiata sul punto di lasciarlo, c'è un altro uomo, ma forse c'è anche qualcosa di più oscuro, di più orrendo. La qualità del DVD è molto molto buona, c'è qualche piccola criticità nei momenti più bui, ricordo che all'interno del film sono presenti degli effetti speciali di make-up realizzati dal maestro Carlo Rambaldi, e Raro ha dato la possibilità, oltre alla doppia traccia originale in italiano e francese, anche di riflessioni sull'opera. Ci sono delle considerazioni da parte della sceneggiatrice Simona Simonetti e del nostro effettista speciale Sergio Stivaletti. E per chiudere invece una commedia grottesca, si intitola The Big Empty. Uno dei motivi di interesse è la presenza come protagonista di Jon Favreau, che poi è stato anche il regista dell'acclamato Iron Man. Ascoltiamo la clip. Ora ascolta. Tu non lascerai il motel. Devi far la guardia a queste valigie blu fino a mezzanotte in punto. Poi le carichi sul camioncino di Randy e le porti al centro del lago asciutto, a metà dell'autostrada del diavolo. Accosta quando vedi l'indiano. Il suo nome è Bob. Bob l'indiano? Sì, ti aspetterà. E sarà lui a guidarti per il resto del viaggio. Dove sta la borsa da bowling? L'ho seppellita là fuori. Disotterrala. Mi serve. Da Officine Ubu, questa commedia molto divertente, la storia di questo personaggio, John, che è alla ricerca di fama, vuole affermarsi come attore, non ci riesce, pieno di debiti, riceve un'offerta da parte di un vicino di casa, consegnare una valigia che non può assolutamente aprire a un misterioso soggetto in cambio di denaro che risolverà i suoi problemi con le tasse. Il film è assolutamente da scoprire, molto molto divertente, e oltre a Jon Favreau come attore sono presenti anche Sean Bean e Daryl Hannah. La qualità del DVD è ottima, abbiamo una traccia in Dolby Digital multicanale in italiano molto molto interessante. Suggerisco comunque l'ascolto anche dell'originale originale in inglese, come extra abbiamo solamente trailer e galleria fotografica. E grazie allora Claudio Pofi, appuntamento sempre qui fra 7 giorni per parlare di DVD. A presto, un saluto. E appuntamento allora fra 7 giorni con La Rosa Purpurea, vi parleremo da Berlino a cavallo della conclusione della Berlinale e avremo ovviamente come sempre tutte le novità cinematografiche da raccontarvi. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.